Entriamo nel vivo allora di questo nuovo approfondimento su ReArt, la campagna contro il riarmo e per la pace di Radio Città Fujiko. Parliamo di un evento dal vivo, quindi non solo di un'opera che è giunta in redazione, ma parliamo di uno spettacolo itinerante Incertosa a cura di Yukali, che si terrà il 17 giugno e anche l'8 luglio. E la madre disse no. Per parlarne siamo al telefono con Simona Sagone, appunto, di Yukali. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, cos'è e la madre disse no? Allora, intanto il titolo dello spettacolo è preso da un verso dell'Avvoltoio di Calvino Liberovici, canzone scritta pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale nel 49, che è un inno pacifista. Tutti dicono no all'Avvoltoio delle guerre, cercando di allontanarlo, a cominciare dalla madre e poi anche i soldati. E anche noi cerchiamo di parlare di quello che sta accadendo con i mezzi che abbiamo. Sono un'attrice, non sono in grado di fare analisi politiche internazionali, ma posso fare, diciamo, la mia parte con l'arte, per dire appunto no al riarmo, a questa escalation che è sotto gli occhi di tutti, con focolai di guerra su troppi fronti. E quindi, come presidente di un'associazione che ha nel titolo, nel nome, Yukali, un'utopia pacifista, è una canzone di Kurt Weill, quindi propone un'utopia di pace, e fin dal nome della nostra associazione abbiamo pensato che non potevamo che coinvolgere voi in radio, il collettivo ReArt, in questo evento. Lo spettacolo sarà itinerante alla Certosa di Bologna il 17 giugno e poi l'8 luglio. Prevediamo una replica alle 21, e se dovessimo riempire quella, perché si può con le visite itineranti, possiamo arrivare solo a 50 persone, possiamo aprire anche una replica straordinaria alle 19:30. E quindi sarà uno spettacolo che si svolge in 3 tappe. E quindi prevediamo una tappa sulla pace politica, una sulla speranza di pace, che sarà la terza, la prima a combattere per la pace. Saremo al monumento della prima guerra mondiale, al monumento della seconda guerra mondiale e infine in un posto che ci sembrava simbolico, adatto poi per appunto la terza parte sulla speranza di pace, con le canzoni più legate agli anni 60, agli anni 70, come Where Have All the Flowers Gone di Pete Seeger e Kickerson, un altro testo straordinario, insomma, sull'utopia pacifista. We Shall Overcome, sempre di Pete Seeger. Insomma, ci saranno tante canzoni e anche citazioni di grandi pacifisti e pacifiste di tutti i tempi, insomma. Quindi teatro, poi, ma anche musica, quindi. Sì, sarà soprattutto uno spettacolo musicale, questa volta non sarà di prosa. Ho con me due musicisti, Mirko Mungari e Umberto Cavalli, quindi ci sarà tantissima musica, tutte canzoni in diversi punti della Certosa, e speriamo, insomma, che siano in tanti a venire, a voler portare un pensiero di pace. All'ingresso poi ci sarete voi, ci sarà il collettivo ReArt con una mostra allestita di tutti i lavori che sono arrivati alla redazione di Radio Città Fujiko, lavori artistici, e speriamo di portare anche frasi, pensieri dei cittadini e cittadine bolognesi che vorranno invece partecipare sabato, domani il 14 alle 17 in Piazza San Francesco, a un flash mob. Abbiamo pensato anche di fare un flash mob nel cuore della città, sempre intitolato E la madre disse no, alle 17 in Piazza San Francesco. Fino alle 18 ci sarà il microfono aperto, chiediamo a tutti di portare un fiore bianco, anche di carta, come segno, insomma, di partecipazione a questa iniziativa, e un pensiero di pace da proporre al microfono, ma può essere anche una canzone, può essere una poesia, una loro considerazione su tutto quello che sta accadendo. Per, insomma, l'idea è di parlare, di parlare di pace, di dare parole alla pace per permetterle di essere, di esistere, allontanando sempre più quello che questi venti di guerra che si stanno sempre più avvicinando, e vorremmo, ecco, ricacciare, parlare invece di pace, di non violenza, di risoluzione dei conflitti con altri mezzi che non siano le armi e la guerra, e lo facciamo con l'arte. Ecco, infatti, mentre parlavi pensavo a un principio base della comunicazione, che è che ciò che non nomini non esiste. Esatto. E quindi, insomma, si parla sempre di guerra, bisogna iniziare a parlare di pace per farla poi esistere concretamente. è proprio quella l'idea di parlare e dare parole alla pace, per costruire una pace che possa essere appunto generativa, che possa andare a modificare le relazioni tra le persone, ripensando anche il modo nostro, un po' di tutti, di stare insieme, di discutere, di parlare, anche nelle nostre conversazioni, portando ecco un'altra modalità di colloquio, anche come vediamo in tutti, il contrario di quello che vediamo tutti i giorni in talk televisivi e non, ecco. Torniamo allo spettacolo appunto di martedì, sì? 17 giugno, perché è necessario prenotare. Si può prenotare ai nostri recapiti di Yucali, info@yucali.it, al numero 333-47-74139, o in alternativa anche abbiamo creato un evento su Eventbrite, quindi posso andare a cercare E la madre disse no e prenotare anche tramite quello, ma non fare il biglietto, solo la prenotazione, poi gli mandiamo una mail, il biglietto si farà direttamente in Certosa, all'ingresso di via della Certosa 18, lì dove c'è il parcheggione, insomma, con tutti i fiorai, il cortile della chiesa, lì si parte. Consigliamo di venire mezz'ora prima della replica scelta, in modo tale appunto da fare il biglietto, vedere la mostra di Riart e poi allora X partiremo tutti insieme in gruppo per queste tre tappe. Allora io, Simona, ti ringrazio e ricordo l'appuntamento, il primo appunto per questo martedì 17 giugno in Certosa, E la madre disse no. Grazie mille. E poi vi aspettiamo anche sabato 14 alle 17 in Piazza San Francesco. Perfetto, grazie. Grazie.